questo è E comunque l'altro giorno c'è stato lo sciopero di quelli che lavorano per Amazon e uno che fa i libri ha scritto che le librerie sono sempre aperte in zona rossa. Oggi i lavoratori di Amazon Italia scioperano. Se oggi tutti compriamo in una libreria indipendente, sosterremo gli esercizi locali e al contempo daremo un segnale di supporto alle lotte sindacali. Ecco, io quel giorno, dopo che ho letto questo tweet, sono andato sul sito di Amazon e ho guardato che cosa vendevano e ho visto che c'erano quattro tipi di offerte. Offerte di primavera, offerte top, offerte lampo e offerte in vetrina. E tra queste offerte ho visto che c'era un termometro auricolare a infrarossi, un elettrostimolatore muscolare 4 canali 12 elettrodi, 60 capsule vegane bruciagrassi soppressore appetito, perdere peso velocemente, 10 ingredienti attivi senza stimolanti fabbricati in UE, spazzola viso in silicone, impermeabile con batteria ricaricabile, funzione 2 in 1, pulizia dei pori in profondità e delicato massaggio per una pelle del viso liscia e curata, uno smalto in strisce bling bling, soffiatore per cani con 4 ugelli, 2800 watt, due livelli di temperature, 30 gradi centigradi, 500 gradi centigradi, velocità di vento regolabile, uno stetoscopio con archetto inossidabile blu caraibico, un battimaterasso ultra vortex 500 watt bianco rosso, tre programmi turbo spazzola sistema ciclonico, una stecca per dito sul grilletto, dito a martello, fratture di dito, cure post operatorie e sollievo dal dolore metallico malleabile, supporto di mano splint dito, un libro portavalori, cassetta portavalori, vere pagine, distributore automatico per gatti e cani, pet feeder automatico con LCD display, registra voce bianco, doccia nasale per il lavaggio delle vie aeree nasali, compresse integratori ad alta potenza aglio nero in odore equivalente a 2000 grammi di bulbo di aglio fresco, punto esclamativo, integratore alimentare idoneo per vegetariani e vegani senza glutine, un rullo per viso verde gua sha, scraping verde, anti-invecchiamento, 180 capsule cozza verde 500 mg e gel high grade Nuova Zelanda, supplemento per il supporto sano, articolazione, sistema immunitario, una confezione per 30 dosaggi, integratore in polvere in ossido nitrico, booster vascolare per pompaggio intenso e extra performance, gusto anguria, volume come liberare il potenziale del vostro bambino, manuale pratico di attività ispirata al metodo Montessori per i primi 2 anni e mezzo, copertina flessibile, un costume da principessa Elsa per bimba con vestito lungo compleanno per bambini motivo carnevale Halloween. E alla fine ho visto che comprando tutte queste cose avrei avuto un risparmio medio del 28,9%. E allora ho pensato a quella cosa che diceva uno che una volta ha scritto: nel frattempo gli oggetti erano andati al potere. La loro prima vittoria era stata il superamento del concetto di utilità. Piano piano avevano occupato anche gli spazi più nascosti delle nostre case e da lì ci spiavano. Ecco, io non lo so se mi comprerei mai tutte queste cose e non so se comprarle quel giorno avrebbe significato aiutare quelli che lavorano da Amazon o aiutare qualche libreria indipendente. Ho però pensato, chissà come ci si sente a mettere nel carrello tutte queste cose, o una sola. Autorizzare il pagamento della propria carta di credito, aspettare un giorno, rispondere al citofono, mettersi una mascherina, scendere le scale di corsa, prendere un pacco, scartarlo e vedere che dentro ci sono 180 capsule cozza verde 500 mg. Chissà come ci si sente. Ho pensato quel giorno.